sicuro sangue, sini sempre in movimento. New DJ seleziona ritmi sempre in più paci. LMC allo microfono, ogni conto non li farti. Dischi su dischi e sopra la puntina, tra la danza si balla fino alla mattina. Rimane all'aria, visti bagnoni, questa è cultura radicata di buone vite. Rivaliti mali, son zero rebel sound, we stay connection, in talento, yes. With many sound, we push you reggae music, good vibration. In a need I'm tall, hear the sound from Jamaica. Give me vibration, feel me mind. If you come in feel we dance, you don't say goodbye, but say with me, me friend. And don't leave you the full girl. If you come in feel we dance, you listen lowly good sound. Questo suono spacca. Suono spacca, e la danza fomenta, il Salento conquista, e la yard si fuoca. Questo suono spacca, e la danza fomenta, il Salento conquista, e la yard si fuoca. Questo suono spacca.